situazione e volevo dedicare un attimo, un momentino a parlarvi di questo progetto che circa un paio di mesi fa, sbaglio, due mesi fa abbiamo deciso di intraprendere, che è una raccolta fondi per installare dei pannelli fotovoltaici sopra le nostre teste, e trovate tutto online. Però adesso volevamo proprio iniziare a raccontarvi anche i motivi per cui abbiamo deciso di fare questa cosa. Abbiamo scritto un testo che si può trovare su appunto tutte le pagine che ci sono su internet. Ci siamo appoggiati al sito Produzione dal Basso e due parole che vi dice Jax. Ma questo progetto sì, è partito ufficialmente due mesi fa, anche se ovviamente all'interno dello spazio è stato nell'aria per un periodo molto più lungo, cioè almeno un annetto, se non di più. E quindi insomma è un progetto che in verità abbiamo pensato molto tempo fa per appunto dotare di corrente elettrica lo spazio, e in questo modo piano piano abbiamo cominciato a dare la corrente a un ambiente che è il laboratorio di registrazione Zami Pop Lab, nel quale appunto il quale aveva l'esigenza di stare aperto spesso, proprio per la continua affluenza di gente che quasi tutti i giorni viene a reccare, a screcciare, a fare produzioni e quant'altro. Quindi per questo motivo ci siamo, diciamo, di fronte all'esigenza ci si applica un po', e siamo riusciti a fare a costo veramente bassissimo, recuperando delle batterie vecchie di automobili, così un piccolo impianto che ha cominciato a funzionare, sul quale abbiamo anche fatto i primi esperimenti per capire appunto il funzionamento. E niente, adesso siamo arrivati qua, c'è questo crowdfunding che finalmente è rivolto a un pubblico, cioè, abbastanza grande, che sta supportando il progetto, e siamo contenti perché stiamo già andando abbastanza bene. Siamo convinti che riusciremo a fare qualcosa di grosso e bello per lo spazio e per tutto il quartiere. Due parole sul testo che è stato scritto ad hoc per questo progetto. Viviamo da anni in quella che è ormai dichiaratamente una crisi ambientale, senza precedenti, e con sempre più ridotte possibilità di uscirne. Il cambiamento climatico produce effetti devastanti sugli ecosistemi più fragili, e i disastri naturali sconvolgono territori ad ogni latitudine, destando la preoccupazione di esperti e intere comunità. Il sistema produttivo che caratterizza il progresso e la civiltà è inquinato e inquinante, irrispettoso dell'ecosistema che lo ospita e utilizza le risorse in modo assolutamente non sostenibile. Le istituzioni locali e internazionali tardano a prendere una posizione netta, e le poche misure eco-friendly sono spesso un tentativo di dissimulare il problema, spostando altrove le fonti di inquinamento. Da tempo abbiamo iniziato a riflettere su quanto sia importante partire dalla propria comunità, e di quanto essa non riguardi soltanto gli uomini e le donne che la compongono, ma al contrario comprenda l'intero ecosistema che definisce il suo territorio. Da tempo abbiamo definito l'autogestione come nostro strumento e orizzonte nel creare un'alternativa a questo iniquo. Qui fondamentalmente è anche un modo per andare contro tutto questa nuova ondata di lato green che tutto il capitalismo sta prendendo, portando ovviamente soltanto un profitto nelle loro tasche. Quindi l'ipotesi in cui viaggeremo su automobili costosissime elettriche non è la soluzione. La soluzione invece è un autosostentamento per quelli che sono le basi di una sopravvivenza, senza uno spreco. Tra l'altro, da sottolineare che la radio è da due mesi che potete ascoltarla H24, anche per l'inizio di questo bellissimo agglomerato appunto di batterie che c'è sopra il tetto. Quindi sia la radio che il laboratorio di pop funzionano grazie a questo iniziale strumento, che però va ampliato appunto per avere le attività che possono circolare H24. Sì, a me è venuta in mente una cosa a cui ho pensato adesso, che mi sembra una delle quasi contraddizioni che un po' contraddistinguono questo periodo, cioè che se da una parte è vero che bisogna rivoluzionare in qualche modo tutto il sistema industriale mondiale, perché si sta consumando troppo, si sta producendo troppo, si sta sovrapproducendo, e questo porta ad avere uno spreco di risorse immane. Dall'altra parte, anche la pretesa di un passaggio immediato a tutto ciò che è meravigliosamente green, buttando via tutto ciò che c'è fino a questo momento, è secondo me sbagliato, perché siamo anche in un periodo che è caratterizzato da un'infinità di oggetti e di cose nelle discariche che basterebbe riparare per avere di nuovo funzionanti. Ed è facile capire che è molto più green riparare una cosa che già esiste rispetto che costruirne una nuova con tutte le tecnologie attuali, perché una nuova lavatrice ha bisogno di un tot di nuovi materiali. Invece io penso che molto di quello che si pensa essere green debba anche stare là, cioè nel riparare le cose, nel utilizzare al meglio le cose che ci sono, non... appunto cercare di non scassarle, perché insomma è tutto il gioco del capitalismo. Il gioco del capitalismo appunto si aggancia a questo termine francese che è stato coniato, che è obsolescence programmée, che è l'obsolescenza programmata, ovvero un oggetto quando viene acquistato da un utente medio, prima di tutto non conosce per niente l'oggetto che va a comprare, perché nessuno sa come si usa una lavatrice, nessuno sa come si usa un rubinetto, le case sono comunque dei pacchetti preimpostati di comfort di cui un utente medio non ne conosce per niente né la conformazione né come vengono utilizzate, come vengono montate. Detto questo, un utente medio, nel momento in cui il suo accessorio diventa obsoleto, lo butta e lo sostituisce. E questo fa il gioco ovviamente del capitale, che ha datato il suo oggetto un tot di anni, ma non perché quell'oggetto non compiesse più quella funzione, ma perché deve esserci un riciclo nella domanda e nell'offerta del capitale per poter andare avanti col suo gioco di potere. In questo caso, attuare dinamiche di questo tipo di riutilizzo, di riformattazione, è il passo successivo dopo l'ecologia green. Un utilizzo diverso di materiali, ma poi anche un cercare di portare questi materiali per tutto il corso di quella che è la loro vita da materiali, non di quella che è la vita che l'azienda gli ha dato invece di possedere, basandosi sul loro libero scambio di mercato. Quindi abbiamo perciò deciso di chiedere il contributo di tutti e di tutte per quello che riteniamo un tassello fondamentale per la vita di ZAM, permettere l'esistenza delle attività che lo compongono fornendo elettricità rinnovabile e sostenibile. I siti sono appunto Produzioni dal Basso. C'è anche un video che abbiamo deciso di presentare, un video molto ridotto di quelle che sono le attività di ZAM, che adesso vi elenchiamo. Ok, le attività di ZAM sono parecchie e partono dal piano seminterrato e arrivano fino al secondo piano. Abbiamo, andando più o meno in ordine, giù in basso c'è, cominciamo dalla sala concerti, che è uno spazio col soffitto abbastanza basso, però piuttosto ampio, che permette di organizzare serate abbastanza carina. Poi ci sono le palestre, abbiamo la palestra normale, diciamo, dove quasi quotidianamente si allena gente praticando varie discipline. Adesso non mi ricordo neanche tutti i corsi che ci sono, però sicuramente ce n'è uno di box. Poi c'è capoeira, esatto. Poi dall'altra parte della palestra c'è il corso di arrampicata, con tutta la struttura di tutte le pareti arrampicabili. Poi appunto salendo c'è un po' il cuore di ZAM, che è la sala principale, dove si svolgono varie attività, dove c'è il bar, dove ci possiamo beccare e piazzare praticamente tutti i giorni. E appunto al primo piano abbiamo il lab, che è lo studio di registrazione di questo centro sociale, e insomma quello spazio lì è molto frequentato, è molto bello, e appunto si produce un sacco di musica, si spinge. Poi salendo ancora abbiamo la radio dove siamo adesso a trasmettere, che tra l'altro abbiamo inaugurato oggi. Poi c'è il laboratorio dell'Art Lab, gestito principalmente da Fergi, dove si fa serigrafia e varie altre cose artistiche. Accanto troviamo la saletta di riaggiustamento casse, di costruzione casse, in generale materiale audio elettrico, tenuta da Sushi. Poi abbiamo l'aula studio, tenuta da il gruppo Aula Studio. Poi c'è sempre sullo stesso piano c'è il teatro, che anche quello è abbastanza frequentato. C'è un gruppo di teatro che si allena e inoltre ospita anche varie altre iniziative quando serve. All'ultimo piano abbiamo invece un meraviglioso laboratorio di birra, dove i nostri mastri birrai, anche detti monaci trappisti, producono birra. E poi in cima a tutto c'è il tetto con i pannelli solari, che appunto stiamo cercando di mettere completamente in funzione. È un bellissimo giardino esterno dove adesso c'è una bella situazione, perché oggi siamo all'interno di quella che è la domenica aperta. Le domeniche aperte a ZAM sono una al mese, l'ultima domenica del mese di ogni mese, e stiamo arrivando alle porte di quella che dovrebbe essere l'estate. Oggi si pensava pioggia, invece ci ha graziato, c'è un bel sole, quindi tutti i ragazzi sono fuori. Esatto. E adesso appunto abbiamo elencato tutte queste realtà che si presenteranno oggi in radio per prendersi un momento di spazio per raccontarsi. Adesso abbiamo appena ascoltato Vlad Scolari col Dopolavoro Stadera, che è una realtà che è nata qua a ZAM, che va avanti col suo percorso anche esternamente in tutta la città, e dovremmo ospitare ancora le ragazze e i ragazzi dell'Aula Studio, le ragazze e i ragazzi dell'Hip Hop Lab, poi la Polisportiva viene a dirci due parole, e un nuovo programma che sta nascendo delle compagne Gioia, Tecla e Sveva, un programma femminista. C'è Chiara che vuole dirci due parole sul suo bellissimo e spumeggiante programma di... com'è che era? Cose interessanti a cui nessuno si interessa, esatto, non ci avevo mai pensato. E andiamo avanti così fino alle 7, quindi grazie per averci ascoltato e sostenete il crowdfunding, trovate tutto su Produzioni dal Basso, c'è il video, tutto il testo che abbiamo letto qua con voi in radio, e è già arrivato a un bel... cioè, se venite qua giù al banchetto trovate tutti i volantini informativi per rimanere un pochettino più aggiornati. Sono io che parlo basso, lui invece è più squillante. È arrivato Cesa, che salutiamo, io... E vuoi dire due parole anche tu sul crowdfunding? Pareri, cose. Dai, così al volo. Ieri sera siamo ufficialmente arrivati a 2500 euro, quindi abbiamo raggiunto il primo step, ovvero quello che ci permetterà di fornire energia pulita a qualcuna delle attività che vi ha elencato prima IAX. Ma abbiamo ancora 311 giorni di tempo per arrivare al totale, che è di 9.000 euro, per cui chi ancora non l'avesse fatto può cacciare il grano. Va sul sito di Produzioni dal Basso, cerca ZAM Solar System e può fare una piccola o grande donazione. Per chi avesse voglia proprio di spendere bei soldi e volesse fare una donazione di 500 euro, la Rap Caverna organizzerà per il benefattore cena più concerto a casa sua, cioè cena probabilmente Soviet friggitoria e concerto a casa sua, e anche litigi coi vicini se chiedessero di abbassare il volume o tutte queste cose.